Italians. Italien. Italianas. Italienische. Italianisch. Italvi. Italiago. Con la valigia. Buongiorno. Buon pomeriggio. Buonanotte. Eccola qui la nostra Laura. Buongiorno a tutte. Bentrovate. Ciao, Italiane ragazzi. Con la valigia. Oggi puntata speciale. Non parleremo di una destinazione in particolare. Oggi parleremo del mondo intero. Perché, come sapete, a noi piace strafare. Ecco, iniziamo esatto. con un progetto, poi dopo allarghiamo la cosa. E oggi avremo una ragazza che ha deciso di mollare tutto, un lavoro, famiglia, amici, casa, tutto quanto per andare a fare il giro del mondo e scoprire nuove culture. Io so che Anna, che sarà la nostra ospite, è tua amica. Sì. Quindi insomma ci hai consigliato tu di intervistarla e devo dire che è un personaggio molto interessante. Anna è una mia carissima amica, abbiamo vissuto insieme un periodo della nostra vita, forse ecco, la più spensierata. La più spericolata. Sì. Senza non parleremo di ciò, no. Assolutamente. No. Però no, sì, ci tenevo tantissimo a intervistarla perché Anna ha visto, cioè una che ha visto il mondo. No, ha fatto un'esperienza che tanti altri avranno fatto ed è per questo che è interessantissimo raccontarla, perché non è solo vado all'estero per lavoro, ma è viaggio, prendo lo zaino e parto alla ricerca o all'abbandono di qualcosa, questo lo scopriremo solamente con lei. Esatto, quindi io non perderei più tempo, andiamo subito a chiamare Anna. Ciao Anna. Ciao. Ciao Anna. Ciao Anna. Benvenuta. Allora, grazie. Raccontaci un po' di dove sei, che cosa fai e soprattutto perché lo zaino e non la valigia. Allora, io sono genovese, come si sentirà dall'accento. Dici? E, appena posso parto, appena posso ho lo zaino pronto e mi piace che sia uno zaino e non che sia una valigia, perché deve essere qualcosa che posso sempre trasportare. Non è che sei una che prende e va a fare la vacanzina una settimana. Io so che tu hai fatto qualcosa di più. Ho lasciato tutto. Nel senso che ho lasciato la casa dove abitavo, amici, lavoro, eccetera, qualche anno fa. Lavoro, tra l'altro, super carriera. Lavoro super carriera, sì, con la gioia di amici e parenti, soprattutto parenti. Soprattutto parenti. Genitori. Parenti. Genitori felici. Finalmente ho sistemata con un bellissimo lavoro in banca, di quelli dove poi ti fanno il mutuo a tasso agevolato e quindi... Vedevano già lì con la tua casetta, il marito, sistemata, come il caminetto, giusto? Il cane. Ma se no non c'è gusto, se non è una situazione così che gusto c'è lasciare sì. tutto, scusa, se lasci sì. tutto e non avevi niente. Sì, sei un poveraccio come noi. Esatto, io non ho lasciato niente. Come ti sei organizzata per questo progetto? Organizzata è un parolone, nel senso che partire per un anno è impossibile da veramente organizzare. Quello che ho fatto è stato fare lo zaino, cercare di metterci cose da meno 20 a più 40 gradi. Da dove sei partita per il viaggio del mondo? Sei partita da Genova e la prima destinazione qual è stata? Primo paese che non era quello che volevo visitare di più, ma quello che veniva meglio visitare. Primo mese in Brasile. E ho detto che bello, meno male che ho studiato un po' di spagnolo, perché qui parlo portoghese. Quindi ho detto ottimo piano, devo dire. Ero preparata al Sud America. Poi sono partita dall'unico paese che lo spagnolo non lo parlava. Ma com'è stato questo mese in Brasile? Hai trovato questi figoni sulla spiaggia di cui si favoleggia? Ti oppure no? La capoeira, tutti nudi come... Qualche maestrino di capoeira. Sì, no, è un col fidanzato, quindi non proprio. A questo viaggio quindi l'hai fatto col fidanzato. Però guardare e non toccare si può fare, giusto? Di paese in paese si cambiava, nel senso che in Brasile gli uomini erano in un certo modo, poi arrivati sull'isola di Pasqua le donne erano in un altro modo, insomma bellezza esatto per tutti gli occhi. Quindi dopo questo periodo in Brasile dove ti sei diretta? Il primo mese sembrava ancora una vacanza, sì. Eravamo molto di corsa, no? Vedi questo, poi visita quello, poi la città, la chiesa, la foresta, il fiume. Poi dopo un mese così ho detto qua o muoio, non riesco ad andare avanti se fosse una vacanza per un anno, oppure rallentiamo, no? Quindi abbiamo rallentato, abbiamo iniziato a girare il resto del Sud America un po' come capitava, quindi da autostop a voli interni a anche perché tu per un anno provavamo. Perché voi per un anno avete viaggiato con il couchsurfing, prevalentemente, giusto? Sì, prevalentemente con il couchsurfing. Che spieghiamo che cos'è il couchsurfing: è un sito al quale ti iscrivi e dove la gente offre, mette a disposizione un divano gratuitamente, un po' uno scambio culturale, uno spazio in giardino dove puoi montare la tenda. Cioè decide poi il proprietario di casa che cosa vuole offrirti, anche un caffè. Anche un caffè, esatto, può anche decidere di non ospitarti. E comunque hai bisogno di soldi per vivere, questo come facevate? Dipendeva un po' dal paese, considera che in Perù riuscivamo a mangiare con 80 centesimi a pasto. Quindi siete partiti con un budget, diciamo. Sì, siamo partiti con un budget, io non sono brava col budget, ma avevo chi pensava al budget per me. No, scusami Anna, cioè lavoravi in banca e non sei brava col budget. Diciamo che io non sarei stata così brava da dire siamo in Perù, invece che 80 centesimi spendiamo 1,50 euro e mangiamo un po' meglio senza proprio, non ti sto a descrivere le situazioni, avrei speso probabilmente il doppio, ma non, senza esagerare, solo che su una vacanza di un mese lo senti niente l'impatto, e se ci devi stare un anno ti cambia, diciamo. Visto che gli ultimi paesi erano Giappone, Australia, quelli più economici. Quindi allora mi hai detto sei partita dal Brasile, dopodiché siete andati in Perù? Abbiamo fatto sì, esatto, Perù, Bolivia, Argentina, Cile, l'Uruguay, poi su di nuovo la Colombia, e praticamente paesi li abbiamo visti quasi tutti tranne il Venezuela. E dalla Colombia poi abbiamo trovato un passaggio in barcavela di un uomo meraviglioso americano che viveva 6 mesi nelle isole caraibiche, 6 mesi nella sua fattoria in Oregon. E sì, se no si sarebbe annoiato tutta la vita in quella fattoria in Oregon a fare un tubo, no? Invece è bello andare in giro con la barca vera. È stata una scoperta vedere quanti modi di vita possibili esistono. Bella questa osservazione, sì. Molto bella, sì, è vero. Quanti modi possibili esistono di vivere. Pensiamo ogni giorno di dover fare quello che stiamo facendo, invece possiamo cambiare totalmente. Completamente, sì. Non mi piace la mia vita, ma devo continuare a farla perché non ho alternative. Invece no, Anna ci dimostri che l'alternativa c'è. Avrai incontrato altri viaggiatori? Soprattutto in Sud America, pochi italiani ho incontrato. Ma va, questa è una novità. Cioè, pochi italiani in Sud America, italiani, è la prima italiani. Volta nella mia vita che sento questa frase. Riuscire a categorizzarli è veramente difficile. C'erano ragazzini di tutti i paesi, e per ragazzini intendo ventenni, che stavano 1, 2, 3 mesi via. Magari avevano fatto, che ne so, l'estate a raccogliere qualche frutto da qualche parte per mettere da parte i soldi per poi viaggiare. Il viaggiatore che ti ha colpito di più in Sud America, chi era? Come si chiamava? Mi ha colpito Oscar, che era un 24enne argentino che stava andando a cercare lavoro lui, perché non aveva una lira. Dall'Argentina era partito, l'ho incontrato in Bolivia e ha deciso di continuare a viaggiare con noi. Ma era Che Guevara, dall'Argentina con furore. Mi si è incollato. Si è sentito adottato un po'. Ancora adesso lui non ha smesso di viaggiare. Secondo te scappa o cerca? Chi viaggia per cercare vite diverse possibili. Lui non aveva veramente niente da dove veniva. Cercava il modo di mettere da parte i soldi viaggiando per poi imbarcarsi su una nave da crociera e poter venire in Europa. Senti, come vi spostavate? Con l'autostop, col treno? Prevalentemente in autobus. Le carrettere, quelle belle. Tra l'altro quelle del Bolivia sono rinomate, insomma, per la loro bellezza, vero? Un autobus ogni 2 settimane, però... Come fai a farla pipì? Devi scendere e dici, scusate. Non lo so. Era l'ultimo dei miei problemi. Esatto. Pensavo per questa cosa, penso che è l'ultima cosa. In Bolivia in particolare siamo quasi stati lasciati in un autogrill. Dico autogrill intendendo uno spazio in mezzo al niente designato a far fermare gli autobus di notte. Bello. Ho dovuto correre attaccata alla portiera dell'autobus per cercare di farlo fermare, ma... Sì, ma so che in Bolivia le avventure possono essere molto pericolose per la vita. Io volevo chiedere dove è andata dopo il Sud America. Siamo arrivati a Panama. Certo. Abbiamo fatto il nord, cioè l'America centrale. Abbiamo fatto tutta l'America centrale. Abbiamo trovato un modo per non pagare il biglietto per volare a Cuba. Qual è questo modo? Svela. Siamo entrati in contatto sempre col couchsurfing, con una rete di messicani che... Abitante. Cosa portavano, scusa? Ah, porta vestiti, saponi, spazzolini da denti. Poi dopo sotto nel doppio fondo c'è il vero parico. Esatto, il famoso caffè messicano. Famoso caffè. Dopodiché siete saliti nel Nord America. Abbiamo avuto un momento di disperazione in cui io non ce la facevo più a essere, passami il termine, la ricca tra i poveri. E quindi abbiamo deciso che c'era bisogno di una piccola pausa e abbiamo fatto i poveri tra i ricchi a New York un paio di settimane. E lì passi dall'essere privilegiata a essere un poveraccio. Perché essere privilegiato significa poter anche soltanto comprarti sempre da mangiare, però avere la sensazione di essere quella che può e gli altri no, per me non è stato un bel sentire. Mi sentivo di non avere simili, che è stata la cosa più difficile del viaggio. Grazie al couchsurfing abbiamo speso $100 in 2 settimane, quindi insomma è andata benissimo, ci siamo riusciti anche lì. Ecco, poi c'è dell'indirizzo infilato sia del volo cubano messicano, quello lì dei saponi, ne parleremo, mi dispiace per i nostri ascoltatori, però sai, comunque non era niente di illegale, eh. Siete partiti verso il Pacifico? Bravissimo, siamo tornati in Cile, abbiamo preso un volo per l'isola di Pasqua e poi dall'isola di Pasqua abbiamo fatto il giro e siamo arrivati in Australia. Ecco, raccontami dell'isola di Pasqua, che cosa c'è da vedere a parte la natura meravigliosa e quelle statue? I Moai, esatto, nient'altro, 3 vulcani, perché l'isola è fatta da 3 vulcani, un'infinità di cavalli, molto più che persone. Beh, un po' come in Nuova Zelanda, una mia amica è andata a vivere lì a raccogliere i kiwi, tra l'altro, e mi diceva che c'erano più pecore che esseri umani. L'unico problema è che non hanno niente da mangiare, cioè non hanno orti, sì, ci sono 4 erbette, ma non è che hanno patate e pomodori, insomma, non ci mangiano con quello che coltivano, e non hanno mucche, non hanno capre, non hanno niente, quindi dipendono totalmente dal governo cileno per il cibo, e i cavalli loro non li mangiano, perché i cavalli si possono mangiare solo per prepararsi alla battaglia. E quindi è un rituale, più battaglie, non essendoci più battaglie non si mangiano cavalli. Loro aspettano il governo per mangiare. Sì. Benissimo, invece in Australia... L'Australia è strana, l'ho trovata strana. Mi chiedevo perché fossi l'unica a passeggiare sulla spiaggia, questa spiaggia meravigliosa, e poi c'è il cartello, occhi ai coccodrilli, poi attenzione allo squalo che salta fuori dall'acqua e il coccodrillo lo mangia mentre il polpo assassino ti uccide, ecco, insomma. Tu passeggi. Bello, che belle spiagge contaminate. Senti Anna, che cos'è che ti è mancato di più dell'Italia, della vita passata mentre eri in viaggio? Difficile, quello che mi è mancato indipendentemente dall'Italia, dopo un paio di mesi, sono state le abitudini, cioè il fatto di muoversi costantemente, spostarsi costantemente, non so, quelle cose che nella vita di tutti i giorni di solito annoiano, no? Gli impegni, le scadenze, in realtà danno una certa sicurezza e una certa rassicurazione. Essere completamente ogni giorno alla ricerca di dove mangiare, dove dormire, cosa fare, dove muoversi, avere tutte queste possibilità davanti, è stata la parte più faticosa. E dell'Italia al cibo, alla fine mi dispiace, ma e siamo sempre lì, la famiglia, il cibo, gli affetti, sì, e a un certo punto hai deciso di tornare, giusto? Perché questo ritorno? Non lo so, ho iniziato a sentire un po' mancanza di casa, l'idea era di fermarsi in Australia e vivere là. Ho pensato, insomma, se mai un giorno metterò al mondo dei figli o delle creature o qualcosa del genere, farli crescere così lontano, qualcosa del genere, ti auguro dei figli, farli crescere, sì, perché creature quali? Sì, non lo so, qualcosa, farli crescere lontano dalle loro radici, dai nonni, in Australia, quindi in un posto dove ci vogliono 2 giorni di viaggio per arrivare. Ho detto no, non ce la faccio. Dove sei adesso? Adesso sono a Genova. Ah, quindi Azina. Appena tornata dall'India, però. Appena tornata dall'India, raccontaci dell'India brevemente, così parliamo da anche sola, di quella. È andata in India da sola, giusto Anna? Completamente, senza niente di organizzato, e insomma c'ero stata già nel nord, questa volta ho fatto il sud, questa volta è stata più una vacanza, più breve, diciamo. Continuo a stupirmi di quante possibili vite esistano, quanti possibili modi di pensare la vita ci siano. Ti dobbiamo salutare perché siamo qui, sforiamo e sforiamo, però sai, ti rinviteremo alla tua prossima avventura. Grazie di tutto. Ciao Anna, grazie. Ciao. Ciao Anna, ciao. Che bella questa storia, veramente interessante. Ci ha fatto sognare. Sì, sì, sì, a me molto, soprattutto quando mi ha raccontato dell'Australia, dei coccodrilli, questa spiaggia incontaminata. La barca, il passaggio. Ti ci vedo, Debola, tu da sola a passeggiare. Amante del mare, soprattutto. Amante dello zaino. Con gli anfibi in Australia. Sì. Chi mi conosce sa che io non metto il costume mai. Ma lì va bene. Sì, esatto. Ti devi proteggere dal sole. L'armatura medievale, soprattutto io dallo squalo. Io con l'olio di cocco, invece. Tu sei stata un'esca prelibata. No, vabbè, io comunque... in Australia non mi ci troverete mai con tutti i ragni che ci sono. Ah sì? Poi mi fa ridere perché parliamo di Australia come se fosse, non so, Udine, Gorizia, un paesetto. L'Australia è più grande dell'Europa. Prima di chiudere, io so che tu ci devi raccontare. Però io ho viaggiato parecchio e ho conosciuto tante persone che hanno viaggiato in tutti i modi diversi. E quello che ho sempre capito è che il viaggio è un po' una malattia, un animale che hai dentro. Viaggi perché senti questo bisogno proprio di lanciarti. Poi quando torni a casa, diciamo, nella tua casa, che può essere anche una persona, una città, ritorni nel tuo posto caldo, però dopo un po' hai voglia di viaggiare di nuovo e non si ferma questa voglia, continua alla ricerca di qualcosa che forse non troveremo mai. O forse perché siamo in un certo senso connessi con tutti i cittadini del mondo, noi non lo sappiamo, però a livello mondiale, a livello anche dell'universo, siamo tutti legati. Condivido assolutamente questo punto di vista. E insomma, credo quindi di avere la bestia dentro anche io. La bestia. Ora un po', tanto si ora un attimo, ora un attimo assopita. Io mi sono obbligata a comprare casa perché ferma. Però è anche bello ogni tanto avere quel punto di riferimento, sì, di cui Anna parlava anche, no? Pronti via, ma noi adesso vi dobbiamo salutare perché è arrivato il momento di chiudere e quindi vi diamo appuntamento la prossima settimana con Italiani con la valigia, una nuova trasmissione, una nuova persona, una nuova esperienza, un nuovo paese, e quindi state con noi. Voilà. Noi vi invitiamo a mettere like sulla nostra pagina di Facebook che si chiama Italiani con la valigia, poi abbiamo anche un sito internet che si chiama www.italianiconlavaligia.com e quindi troverete tutti i contatti, tutti i siti in cui siamo, perché siamo un po' dappertutto. Come prezzemolo. Comunque scriveteci e partecipate alla nostra trasmissione perché siamo super curiose di sentire la vostra storia. Vi salutiamo, appuntamento settimana prossima. Buongiorno, buon pomeriggio e buonanotte. Ciao. Ciao. Ciao.